TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aritmia maligna, possibile causa del decesso del 15enne morto mentre giocava a calcio a Pordenone la vigilia di Natale. Snyder oggi, tavolo congiunto con la regione e i sindacati sulla crisi aziendale. Focus sulla chiusura del reparto verniciature e la tutela dei 27 esuberi. Mercato del lavoro tiene, tasso di occupazione in regione, crescono le assunzioni in sanità e comparto alimentare. Test di accesso a medicina, 134 studenti a Trieste superano tutte e tre le prove, coprendo 64% dei posti. A Udine 82 studenti con l'accesso senza debiti, con una copertura del 50%. Odontoiatria a Trieste, solo 5 su 40 superano tutte le prove. Realizzato un docufilm sul processo che indaga la tragica fine di Giulio Regeni, l'anteprima nazionale il 25 gennaio a Fiumicello. Energia di Amuggia, pedalare insieme per generare energia green alla scuola Sauro, che si trasforma in una sorta di centrale per l'energia rinnovabile. La lingua friulana che vive nel tempo e nello spazio, a Udine il punto sulla conoscenza del marilenghe degli emigrati all'estero. Il CAI di Pordenone celebra il centenario con un documentario sulla montagna, un sentiero lungo 100 anni, storie e testimonianze di passione per l'ambiente montano. Basket, buona notizia per l'APU Udine, revocata la sospensione di Hickey dal Tribunale Nazionale Antidoping. Trieste perde gara 2 di play-in contro Zlonchi e Gesteco Cividale sfida Rieti nell'anticipo, difficile trasferta contro una squadra in forma. Buongiorno da Dario Ronzoni e Anna Vitaliani in studio. Il tempo, diamo uno sguardo, cielo nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle ore 6 a Trieste, 4,5 gradi, Pordenone 1,5 gradi, Udine 1 grado, Gorizia meno 0,5 gradi, Tarvisio meno 5 gradi, Tolmezzo meno 6 gradi, Forni di Sopra e Piancavallo meno 6,5 gradi, Sappada meno 8,5 gradi, Monte Lussari meno 7,5 gradi, Monte Zoncolan meno 8 gradi, tornando sulla costa Grado e Lignano 2 gradi. Le previsioni per oggi vedono cielo da nuvoloso a coperto con meno nubi sulle zone occidentali e in Carnia. Saranno possibili deboli precipitazioni sparse, specie sulla fascia orientale. Quota neve sui 300 metri circa. Possibili locali formazioni di ghiaccio al suolo anche in caso di pioggia a causa del terreno gelato. E questa prima edizione del GR regionale della RAI, apriamola con la cronaca, lo abbiamo sentito dai titoli, il 15enne morto in un campetto mentre stava giocando una partita di calcio con gli amici, la vigilia di Natale a Pordenone, è deceduto per una verosimile aritmia maligna e non per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra privo di conoscenza. E quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri pomeriggio per conto della procura dal medico legale Antonello Cirnelli, alla presenza dell'esperto cardiologo Paolo Ius e dei consulenti nominati dall'indagato per un medico dello sport, Nei prossimi 60 giorni Cirnelli e Ius dovranno quindi stabilire se questa aritmia poteva essere in qualche modo intercettata dagli esami svolti per la concessione dell'idoneità sportiva per giocare tra le file della società calcistica Torre, e quindi poteva essere evitata, oppure se si è trattata di una tragica fatalità. Alcune notizie dell'ultima ora a Trieste. Attenzione al ghiaccio sulle strade. I vigili del fuoco segnalano un incidente sulla grande viabilità, mentre un furgone è rimasto incastrato in un sottopasso a Fiume Veneto in via Pian di Pane intorno a mezzanotte. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, che dopo averlo legato l'hanno trascinato fuori. L'operazione si è conclusa intorno alle 2 di notte e, visto l'orario, non ci sono stati problemi per la viabilità. I temi economici ora. La regione ha convocato per oggi alle 12 un tavolo congiunto nella sede della regione a Udine con la direzione aziendale di Snyder Orino SPA e le organizzazioni sindacali per affrontare le questioni legate alla crisi del gruppo. La convocazione segue la richiesta avanzata dalle rappresentanze dei lavoratori dopo l'incontro del 17 dicembre con la direzione aziendale. Al centro del confronto la decisione dell'azienda di procedere alla chiusura del reparto verniciatura, esternalizzando le lavorazioni e provocando 27 esuberi, scelta offerta che, secondo i sindacati, non rientrerebbe nel piano di ristrutturazione in essere che interviene mentre l'impresa sta usufruendo di un contratto di solidarietà. L'amministrazione regionale, hanno affermato gli assessori Rosolene e Bini, ritiene indispensabile un confronto trasparente e responsabile tra tutte le parti coinvolte. L'obiettivo è fare piena chiarezza sulle scelte annunciate e verificare ogni possibile percorso utile alla tutela dei lavoratori e dell'occupazione. E ora i dati del lavoro. In Friuli Venezia Giulia è in lieve aumento la disoccupazione, ma diminuisce il divario di genere. I dati sono dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro. Sentiamo. Il mercato del lavoro mostra una sostanziale stabilità nel periodo gennaio-novembre 2025. Tiene il tasso di occupazione, si riduce il divario di genere, la disoccupazione rimane bassa, pur in lieve aumento. Gli occupati diminuiscono dello 0,3%, circa 2.000 unità in meno. Cresce il lavoro dipendente, più 0,8%, cala quello indipendente, meno 5,1%. Nel terzo trimestre gli occupati tra i 15 e i 64 anni salgono da 501.000 a 508.000, con 7.000 unità in più. Il tasso di occupazione maschile è al 74,4%, quello femminile al 64,6%. Il divario di genere scende a 9,8%. In crescita lieve la disoccupazione, più 9,8%, più marcata quella maschile, 12,8% contro il 6,9% femminile. Le assunzioni restano in linea con il 2024, diminuiscono i contratti a tempo determinato meno 3% e aumentano quelli a tempo indeterminato più 1,2%. In calo le cessazioni del lavoro dipendente meno 1% e le dimissioni meno 3,9%. Tra i settori, costruzioni in contrazione, fenomeno dovuto alla cessazione del bonus 110. Segnali positivi dall'industria, metalmeccanico più 3,2%, alimentare più 17,7%. Nel terziario crescono sanità e servizi sociali più 24% e trasporti e magazzinaggio più 8,9%. In flessione commercio al dettaglio meno 14,1% e servizi di pulizia meno 20,3%. Cresce inoltre il fenomeno dei working poor, persone che lavorano ma con salari e contratti che non garantiscono condizioni di vita dignitose. All'inizio di febbraio arriveranno i dati sull'intero anno. Secondo l'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro, le macro tendenze dovrebbero essere confermate: occupazione stabile e un progressivo invecchiamento della forza lavoro. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sembra vicina la firma dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Anche a livello regionale si ripropone una frattura tra industriali e agricoltori, favorevoli primi, contrari secondi. Dalla Francia alla Germania, passando per Grecia e Belgio, agricoltori di nuovo in piazza per dire no all'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Sud America, il Mercosur, mobilitato anche il mondo dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, che il 18 dicembre si è rappresentato a Bruxelles con 150 manifestanti di Coldiretti. Dopo le proteste la firma è stata rinviata, ma l'accordo ora è più vicino. Roma potrebbe dire sì stavolta, dopo aver ottenuto 10 miliardi in più per la politica agricola comune. Confagricoltura, CIE e Coldiretti accolgono con favore i fondi, ma il no al Mercosur resta. Per il presidente regionale di CIA, Franco Clementin, i più penalizzati sarebbero i seminativi e gli allevamenti di carne rossa, per i quali in Sud America gli standard produttivi sono inferiori ai nostri. Per questo motivo il direttore regionale di Confagricoltura, Umberto Daneluzzi, sostiene che andranno potenziati i controlli per evitare che entrino residui di sostanze qui vietate. Secondo Coldiretti è fondamentale garantire la reciprocità. Il direttore regionale Cesare Magalini. Non è possibile che ci sia una competizione con regole diverse, quindi no a Mercosur se non viene presa in considerazione la clausola della seria reciprocità, ma non nelle parole, nei fatti, con atti conseguenti scritti nero su bianco. L'industria invita il governo italiano a firmare. Le aziende manifatturiere ritengono di poter beneficiare da quest'area di libero scambio, soprattutto dopo i dazi imposti dagli Stati Uniti. Il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo. È un'area interessante, molto interessante, dove non sono ancora presenti, diciamo, delle aziende che siano in grado di contrastare le tecnologie che noi esportiamo, appunto le tecnologie italiane ma anche europee. Di conseguenza per noi industriali europei, diciamo, è un mercato sicuramente che può darci molto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È uscita ieri nel tardo pomeriggio la graduatoria del test di accesso a medicina nella nuova modalità di quest'anno, che prevedeva semestre aperto e poi un test con 3 prove. Per il momento si sa quanti giovani hanno superato tutte e 3 le prove, guadagnandosi l'accesso sicuro senza la necessità di fare recuperi e nuovi test. A Trieste a centrare 3 prove su 3 sono stati 134 studenti che, una volta immatricolati, copriranno il 64% dei 210 posti a disposizione. A Trieste poi c'è anche odontoiatria, dove ad aver superato tutte le prove sono solo 5 studenti su 40 posti disponibili. A Udine la copertura certa, cioè senza debiti, è del 50%. 82 studenti hanno passato i 3 test per complessivi 165 posti. Chi non ha superato tutte e 3 le prove, come inizialmente era previsto, era stato previsto dal Ministero, il sogno non si infrange qui, poiché, visto il risultato generale, il Ministero ha deciso di allargare le maglie per mettere l'iscrizione con previo recupero, con appelli dedicati, che gli atenei dovranno organizzare entro febbraio. Di fatto, solo il 22,5% dei ragazzi degli oltre 600 che hanno frequentato il semestre filtro a Trieste ha passato tutti e 3 i test, il 20% nel caso di Udine. Le temperature estremamente rigide di questi giorni mettono a dura prova chi un tetto sopra la testa non ce l'ha, come i migranti che arrivano a Trieste dalla rotta balcanica e che talvolta rischiano la vita nel tentativo di scaldarsi. Con la mascherina d'ossigeno in pronto soccorso, salvo per un soffio, ancora poco e il monossido se lo sarebbe portato via, scrive Lorena Fornasir, fondatrice dell'associazione di volontariato Linea d'Ombra, che in un post su Facebook pubblica la foto di questo giovane migrante del Kashmir che ha rischiato la vita tentando di scaldarsi con mezzi di fortuna in un anfratto dei magazzini di Portovecchio a Trieste. Un centinaio di migranti che ogni notte dormono all'addiaccio anche in queste notti ghiacciate, nonostante i trasferimenti proseguano con regolarità. Ma oltre al gelo, ora un vero killer in situazioni di estrema fragilità può essere l'influenza. Nell'ambulatorio di Spazio 11, la sala d'attesa solidale notturna di via Udine, i medici dell'associazione umanitaria DONC, che visitano una media di 11 persone a notte, in questi giorni ne hanno visitate più del doppio, fino a 25-26 persone in poche ore. Michele Carraro, medico volontario. Siamo in una situazione di intenso freddo. Siamo nel pieno della pandemia dell'influenza. La caratteristica è che la gran parte delle persone che almeno in questo ambulatorio noi visitiamo non hanno dimora e quindi vivono al freddo. In queste situazioni il rischio è quello che l'infezione virale si complichi con un'infezione batterica. Il dottor Carraro, nefrologo e internista in pensione, è direttore sanitario di un ospedale in Madagascar e volontario per DONC. Casi di inalazione da monossido di carbonio, spiega, ne abbiamo gestiti, ma di riflesso. Noi abbiamo un'ottima collaborazione con Asugi. Molti dei nostri medici volontari sono ancora dipendenti di Asugi. Ci hanno chiesto come facciamo adesso che, ringraziando il cielo, questo paziente è guarito e quindi può essere dimesso. Nello specifico abbiamo contattato la Caritas e abbiamo trovato una sistemazione. Nella nostra attività c'è una profonda collaborazione con le istituzioni. 10 anni fa la scomparsa di Giulio Regeni nella sua Fiumicello, in anteprima nazionale il 25 gennaio, la proiezione del docufilm dedicato a lui e alla lotta della sua famiglia per arrivare alla verità sulla morte del ricercatore. Nel titolo del docufilm diretto da Simone Manetti, Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, le parole che Paola Defendi, madre del ricercatore di Fiumicello, rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016, pronunciò davanti ai giornalisti dopo aver riconosciuto il corpo martoriato del figlio in obitorio. Sul suo volto ho visto tutto il male del mondo, disse, parole come macigni che richiamò anche da testimone al processo in contumacia contro gli uomini dei servizi egiziani accusati del sequestro, della tortura e dell'omicidio di Giulio Regeni, la cui sentenza è attesa entro fine anno. Attraverso il processo si sviluppa la narrazione del docufilm scritto con Emanuele Cave e Matteo Billi e realizzato col contributo e la partecipazione in prima persona della famiglia Regeni e della loro legale, l'avvocata Alessandra Ballerini. Il lavoro prodotto da Ganesh e Fandango dopo l'anteprima nazionale del 25 gennaio in programma a Fiumicello in occasione del 10° anniversario della scomparsa del ricercatore suo concittadino e alcune proiezioni speciali uscirà nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio. Confidiamo, dichiarano Giuliano Regeni, che la sua diffusione possa fare conoscere la nostra lunga battaglia per ottenere verità e giustizia e possa fare comprendere tutto il male che abbiamo dovuto affrontare, gli ideali che ci hanno animati. Ci auguriamo che la consapevolezza di tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio e su di noi possa renderne più difficile la sua reiterazione, che pure sappiamo compiersi spesso nell'impunità ai danni dei molti Giuli e Giulie del mondo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La presidente della Commissione regionale pari opportunità, Dusi Marcolin, interviene con una nota per condannare ogni forma di comunicazione irrispettosa e sessista utilizzata sempre più frequentemente da alcuni politici e pubblici amministratori, in particolare nei confronti delle donne. Per la Marcolin, quando a parlare sono i rappresentanti delle istituzioni, ogni parola assume un peso pubblico e una responsabilità collettiva. La comunicazione pubblica deve essere ferma nei contenuti ma corretta nei modi, ha affermato la presidente della Commissione Pari Opportunità. Proprio due giorni fa il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, era stato al centro di polemiche per un post su Facebook nel quale aveva dato della befana alla segretaria del PD, Elly Schlein. Oggi e domani a Muggia si potrà pedalare tutti insieme per generare energia green. È il progetto dell'energia di promosso dal Comune che si terrà alla palestra della scuola Sauro. L'istituto diventerà una vera e propria centrale dove sarà generata energia rinnovabile e pulita grazie alla partecipazione di tutti. L'iniziativa, divisa in due parti, ha compreso prima un progetto didattico con riflessioni sul consumo di elettricità. Dalle 16.30 invece parte la maratona per creare energia. Ne abbiamo parlato con la docente Chiara Stelenatti che ci ha spiegato come funziona. La parte pratica sono 36 ore di pedalata, anche di notte, quindi la scuola rimarrà aperta a tutti e inclusiva perché ci sono 5 biciclette per normodotati, 2 smart bike e 2 end bike, quindi è proprio per l'inclusione. Le persone anche con difficoltà possono venire a pedalare, dai bambini agli anziani, vengono registrate i wattoro, li chiamano. La scuola che produce più wattoro vince. Cosa sono i wattoro? I wattora, l'energia. Quindi noi produciamo energia elettrica tramite la forza del nostro corpo, dei nostri muscoli. E come sarà impiegata questa energia? O viene messa in rete o viene donata. E durante questa maratona ci si potrà dare il cambio? Certo, io ho preparato degli slot di mezz'ora ciascuno. Praticamente ho quasi tutti gli slot occupati, chi da società, chi da famiglie, e si danno il cambio, oppure ci sono persone che si sono prenotate per 2 ore di fila e vengono a darci una mano, quindi pedalando per 2 ore. Poi alcuni ristoratori ci hanno donato acqua, succhi, insomma cibo per fare un buffet, quindi per comunque in qualche modo allietare anche i ciclisti. È anche un'iniziativa istruttiva per i ragazzi. Ah sì, perché in realtà questa è la parte più ludica forse, nel senso che viene fatta questa pedalata, ma io assieme comunque alla mia collega Sula Milani abbiamo fatto tutto un laboratorio che è durato mesi sull'energia, quindi comunque i ragazzi sanno di cosa stiamo parlando. Come difendersi da propaganda e manipolazione lo spiega a Pordenone uno spettacolo per ragazzi nell'ambito della rassegna di cittadinanza consapevole, uguali, diversi. Si parte dai discorsi dei dittatori più famosi per riconoscere le strategie della retorica e sviluppare consapevolezza critica. All'Auditorium Concordia di Pordenone lo spettacolo Come parla il perfetto dittatore, curato da Flavia Truppia, docente e divulgatrice, con Enrico Roccaforte, regista e formatore teatrale nell'ambito di Uguali Diversi, iniziativa dell'Associazione Tesis per le scuole superiori nel nuovo percorso dedicato alle parole e alla manipolazione. Flavia Truppia, presidente dell'Associazione per la Retorica. Abbiamo scelto di raccontarlo attraverso la rappresentazione, attraverso la presa in giro dei dittatori, perché poi i dittatori spesso sono anche ridicoli nel loro modo di comunicare, ridicoli però allo stesso tempo feroci. E bisogna conoscere le strategie della retorica che mettono in atto i dittatori proprio per vaccinarsi da queste strategie e non farsi abbindolare dall'idea, dalla seduzione dell'uomo forte. forte al comando, perché oggi c'è questa seduzione e questo ce lo dicono anche le ricerche. Quindi attenzione a questa seduzione, vacciniamoci, perché la democrazia, come dice il presidente Mattarella, è sempre la cosa più bella e più forte di tutti. Al termine, studenti e studentesse sono stati coinvolti nella stesura del discorso del perfetto dittatore, mettendo in pratica le tecniche comunicative apprese. Questa sera l'incontro con Trupia, dedicato al potere del linguaggio, è aperto al pubblico alle 20:30 a Camino al Tagliamento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha preso il via la 15ª edizione del Master Universitario Interateneo di Primo Livello in Economia e Scienza del Caffè Ernesto Illy, ideato da Illy Caffè e Fondazione Ernesto Illy, per offrire una preparazione a tutto tondo sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè conducono al prodotto finale. Il Master, che si rivolge ai giovani laureati in Economia, Ingegneria e Scienze Agrarie, vede coinvolti 26 studenti provenienti da 20 paesi. Ad affiancare l'organizzazione, l'Università degli Studi di Trieste, quella di Udine, la Sissa e Area Science Park. La lingua friulana come simbolo di identità nella comunità di Oltreoceano, focus di un progetto di ricerca dell'Università di Udine. Oltre 2 discendenti di emigranti su 10 hanno una competenza almeno base della lingua friulana. A rivelarlo uno studio dell'Università di Udine sugli emigranti in Argentina di fine 800, a un convegno dove si è parlato dell'italiano, di emigrazione, di lingue minoritarie e di interferenza linguistica. Linda Borean, direttrice dipartimento studi umanistici UniUd. Lo studio della lingua, delle lingue nelle varie declinazioni, comprese soprattutto quelle minoritarie, sono un asse portante, e questo gruppo di giovani ricercatori da anni lavora su questo tema, che include appunto anche il recupero di una tradizione linguistica che rischia di essere perduta. Grazie ai Fogolars locali, 140 persone hanno risposto al questionario, discendenti che magari in Friuli non ci sono mai stati, ma a cui la marilenga è stata trasmessa in maniera intergenerazionale. Francesco Zuin, ricercatore. Quei migranti, quei discendenti di emigrati friulani che si sono spostati e che si sono inseriti appunto nelle grandi metropoli del Sud America, dell'Argentina, tendono a perdere il friulano nel giro di 2-3 generazioni. Viceversa, appunto, coloro che sono emigrati nelle aree rurali, che hanno fondato colonie compatte dal punto di vista etnico, penso agli esempi di Avejaneda o Colonia Carogia, in quel caso il friulano invece è diventato ed è per lungo tempo stato una lingua comunitaria. Ma che friulano parla? Chi ancora lo parla? Presso tutti i parlanti si può individuare una pressione dello spagnolo, quindi alcuni influssi che sono dovuti al contatto nel repertorio della comunità con lo spagnolo. Nel contempo però in molti casi si mantengono anche peculiarità arcaiche o tipiche delle sedi di partenza dei progenitori. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato a Udine il programma di eventi per il Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio. Una ventina gli appuntamenti che culmineranno nella posa di 8 pietre d'inciampo dedicate a partigiani ufficiali scomparsi nei campi di concentramento. Tra gli eventi, quello di Sami Modiano, uno dei pochi bimbi sopravvissuti al campo di concentramento di Auschwitz, che sarà a Udine con una videotestimonianza dedicata alla città e registrata ad hoc a Roma. E sarà veicolata durante gli appuntamenti del programma, il programma che si sviluppa dal 19 gennaio e coinvolge librerie, biblioteche, scuole, università, teatri, musei, cinema e luoghi simbolo della città. Il CAI di Pordenone conclude il suo centenario con una serata speciale dedicata alla montagna. Alle 21 presso la Sala Grande di Cinema Zero a Pordenone verrà presentato il documentario dal titolo Un sentiero lungo 100 anni, racconto corale sul secolo di impegno, passione e amore per l'ambiente montano, con immagini d'archivio e testimonianze proprio di montagna e della sua salute. Abbiamo parlato con il presidente Alleris Pizzut. La montagna di per sé stessa non sta male, a parte cambiamenti climatici. Quello che non sta tanto bene è la frequentazione un po' della montagna negli ultimi anni. Dopo il Covid si prende un po' di assalto e non tutte le persone che si avvicinano con lo spirito che qualche anno fa si avvicinavano. C'è quindi meno rispetto per la montagna da parte di chi va in montagna? Non è che queste persone hanno poco rispetto, non si rendono conto di come si deve frequentare la montagna, in questo senso. No? Non voglio offendere nessuno, insomma, per dire. No? Quali sono le mancanze? Beh, mancanza di sensibilità dell'ambiente, di come si frequenta, come ci si veste, come si approccia alla montagna, no? si approccia con leggerezza senza capire che la montagna, bene o male, è un ambiente, non dico severo, ma comunque di grande attenzione. Severo sicuramente in montagna d'inverno, d'estate è un po' meno severo, però ci vogliono le dovute attenzioni e soprattutto le esperienze per frequentazione. Perché noi come CAI questo portiamo avanti da moltissimo tempo, non solo nella situazione di Pordenone, ma anche a livello nazionale. No? Fate dei corsi per spiegare? Sì, esatto, facciamo dei corsi. Fino a qualche anno fa i corsi del CAI, anche a livello nazionale, erano dedicati solo all'alpinismo di un certo tipo, arrampicata e quant'altro. Negli ultimi vent'anni, forse anche di più, si approccia anche con i corsi di escursionismo estivo e anche invernale, perché anche d'inverno adesso, anche per la legge italiana, bisogna avere delle dotazioni adeguate all'ambiente in cui si approccia e si inoltra. Abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora sull'incidente che è accaduto questa mattina a causa del ghiaccio sul raccordo autostradale di Trieste nello svincolo di entrata a Trevigiano per i veicoli coinvolti a Venezia. Un incidente ha coinvolto 3 persone, 4 veicoli coinvolti, 3 auto e un camion. Le persone fortunatamente sono ferite in modo lieve. Comete e Green Deal, la chimica organica ci salverà, è il titolo della conferenza in programma oggi a Trieste in Sala Luttazzi per la rassegna Una luce sempre accesa. L'astrofisico Marco Full dell'Osservatorio Astronomico di Trieste racconterà i progressi nello studio della materia delle comete e spiegherà come le nuove scoperte potranno aprire nuove possibilità per il Green Deal. Gli abbiamo chiesto anche noi. Il Green Deal ha sviluppato tantissime reazioni chimiche che tendono ad assorbire proprio la CO2. Ora, ultimamente sulle comete c'è proprio un problema analogo, che noi osserviamo meno CO2 di quello che ci aspettiamo e quindi è probabile che anche sulle comete siano al lavoro queste reazioni e magari anche di nuove. E a Trieste ne abbiamo individuato una che spiega proprio le osservazioni dei metalli alcalini negli spettri osservati da terra di alcune grandi comete. Questo segreto come si può cogliere? Intanto bisogna cercare di capire come fanno a uscire questi metalli alcalini dalle superfici delle comete o dalle polveri. E osservando questi spettri si può vedere che, per esempio, ci sono 3 principali metalli alcalini, in ordine di peso il litio, il sodio e il potassio. Negli spettri invece, per esempio, il litio non compare mai, il sodio compare poco fuori l'orbita di Venere e il potassio compare poco fuori l'orbita di Mercurio. Ora, questo è un tracciante che ci fa capire che il processo con cui escono questi metalli alcalini dipende moltissimo dalla temperatura. Chiaro, chiarissimo, quindi è una questione di temperature. Raccogliendo moltissimi spettri di questi metalli alcalini abbiamo potuto proprio vedere che c'è questa dipendenza fortissima della distanza dal Sole. E come si può utilizzare questo fenomeno sulla Terra per scopi, diciamo, climatici? Vi sono tantissimi altri composti organici che, fatti reagire con la CO2, assorbono la CO2 e si trasformano in altri composti organici. L'idea è di stabilire delle fabbriche in cui questi processi vengono implementati non tanto per ottenere altri composti organici, ma proprio con lo scopo semplicemente di assorbire CO2 dall'atmosfera. Ha studiato in Italia e negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, una delle accademie musicali più importanti del mondo, dove ha conosciuto i grandi maestri della scena jazz e rock americana. Stiamo parlando di Jan Sturiale, musicista friulano che si esibirà questa sera a Cervignano del Friuli e di cui state ascoltando le note. Verrà presentato il suo nuovo album In the Life, registrato tra Lubiana e New York. A suonare con lui anche Francesco De Luisa, Alessandro Trucchette, Luca Colussi alle 20:45 al Teatro Pasolini di Cervignano. Passiamo allo sport, il basket. Buona notizia per l'APU Udine. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la revoca della sospensione cautelare nei confronti di Anthony Hickey, che era risultato positivo al clorotiazide lo scorso novembre. Il giocatore statunitense è tornato a casa per le festività natalizie perché la sospensione gli proibiva anche di allenarsi. Tornerà in Italia e si metterà nuovamente a disposizione di coach Vertemati per tornare in campo. Trieste perde in casa gara 2 di play-in contro gli ungheresi del Zolnoki. Il risultato è di 80-89 alla fine di un match in cui i biancorossi concedono tantissimo agli avversari, anche se nel corso della partita erano riusciti a recuperare i 20 punti di divario accumulato nel primo tempo, portandosi avanti nel punteggio già nel terzo quarto. Le disattenzioni, i 22 rimbalzi concessi e la fatica della terza partita in 5 giorni viene pagata con un finale poco lucido. Si salva solo Capitan De Angeli e a tratti Toscano Anderson. Gara 3 sarà martedì 13 in Ungheria. E stasera la Gesteco Cividale sarà impegnata nell'anticipo del venerdì a Rieti contro la Sebastiani, allenata dall'Udinese Franco Ciani. Per coach Pilastrini un match complicato. Rieti è un avversario che ha una situazione di classifica molto simile alla nostra, ha detto, ma soprattutto si tratta di una squadra che all'andata ci ha battuto nettamente, mettendoci in grande difficoltà. La partita, la Palla Sojourné, in programma alle 21 in diretta su Rai Sport. Da oggi e fino a dopodomani Tarvisio ospiterà una nuova edizione dello Snow Rugby che unisce sport e intrattenimento. Quest'anno è prevista la partecipazione di oltre 50 squadre, quasi 400 giocatori, uomini e donne, in 4 tornei per un totale di 170 partite nell'arco di 3 giorni. Rassegna stampa. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il piccolo di Trieste. In apertura ai piani di trasloco della regione in Porto Vecchio, l'operazione ha già almeno un anno di ritardo, i costi sono lievitati di 10 milioni di euro. Interessato, scrive il piccolo, 1.285 impiegati sparsi in varie sedi. Taglio alto Giulio Regeni a Fiumicello, la prima del suo docufilm nel giorno del decennale del suo rapimento. Fotonotizia centrale dedicata al basket, Trieste incompiuta e fischiata, in Ungheria alla bella. Di spalla la cronaca, si sente male a bordo del bus, viene salvato dall'autista, è successo ieri sulla 29. Investì e uccise un amico in moto senza patente fino al 2040, a stabilirlo il giudice. Nelle pagine interne turismo in Croazia, italiani scalzati da cechi e inglesi. Per la cultura la nuova mostra dal 17 gennaio al magazzino 26 di Trieste, dedicata alla Belle Époque, volti di donna. Il piccolo di Gorizia, la prima pagina, apre con la stretta anti-Islam, il prossimo pacchetto sicurezza si ispira a Monfalcone, il sottosegretario agli interni proporrà al governo il testo ispirato alla città dei cantieri. Fotonotizia centrale in bianco e nero, i 90 anni di Dan Peterson, Roberto Premier, ex giocatore goriziano, racconta il coach per eccellenza nel giorno del suo compleanno. Di spalla la cronaca, la salma di Utili, l'uomo che 2 giorni fa ha tentato di uccidere la moglie a Monfalcone per poi togliersi la vita, attende il nulla osta per la sepoltura. Nelle pagine interne di Gorizia, AAA cercasi autisti di Pullman, PT a caccia di ragazzi anche nelle scuole. Paura dei ladri, una chat tra residenti su WhatsApp, si scambiano messaggi su furti e tipi sospetti, succede a Monfalcone. Ondata di gelo, freddo anche in corsia e l'apertura del Gazzettino in entrambi i dorsi locali di Udine e di Pordenone. Si parla delle temperature basse anche negli ospedali e dei rischi per i pazienti. Si parla poi di vino, gli ordini hanno retto nonostante i dazi e il bilancio di Coldiretti, ma le incognite ora sono legate ai cambiamenti di abitudini nei consumi americani. Nelle pagine successive, in entrambi i dorsi, che sono quasi identici, si parla di scuola con i nuovi indirizzi più tecnologici nelle classi e le graduatorie dei docenti. Nel dorso di Udine si parla poi del piano rifiuti e cassonetti smart in arrivo in città, mentre in quello di Pordenone è centrale il piano di rilancio dei negozi del centro, oltre alla fuga in auto e allo schianto e l'esito dell'autopsia sul giovane morto sul campetto da calcio. Il risultato, abbiamo detto anche il nostro giornale radio, è stata un'aritmia maligna a provocarne il decesso. In apertura del Messaggero Veneto, il delicato intervento su due bambini a Udine inalano aracardi, salvati, l'intervento condotto da un'equipe. Sempre in prima pagina il freddo record, temperatura impicchiata, a Fusine meno 20 gradi e sempre in tema gelo, il giornale fa un reportage dei dormitori della città per le persone senza tetto. Sono 55 posti a disposizione, ma l'accesso non è facile. Si parla anche di Giulio Regeni e del docufilm su di lui, si intitola Tutto il male del mondo e sarà proiettato il 25 gennaio in anteprima a Fiumicello. Sempre in tema memoria, il comune di Udine presenta il programma della giornata della memoria, 18 iniziative con 8 nuove pietre d'inciampo. Edizione di Pordenone, sempre del Messaggero Veneto, clochard, emergenza freddo, qui i posti disponibili sono 19, il dormitorio è già completo, anche qui nelle pagine interne il viaggio nei luoghi dell'accoglienza. Sempre in prima pagina si parla dell'incidente in via Martelli, l'auto non si ferma all'alt e va a schiantarsi contro un'altra vettura. I due giovani a bordo oppongono resistenza, chi guidava era senza patente. E poi la raffica di furti nella casa dell'artista Nevio Zorzetti a Saccile. A casa mia non c'è più nulla da rubare. Trieste, alcuni spettacoli per oggi. Trieste, il corpo di ballo dell'Opera di Roma, guidato da Eleonora Bagnato, nella duplice veste di direttrice l'Étoile sul palco, un progetto incentrato su 4 coreografie di 3 maestri che hanno fatto la storia del balletto classico nel mondo: Roland Petit, Christopher Wildon del Royal Opera House e New York City Ballet, e il polacco Christoph Pastor, musiche di Mahler, Ezio Bosto, Antonio Vivaldi, Fore e il celeberrimo bolero di Ravel. Al Teatro Verdi di Trieste alle 20, repliche fino a martedì 13 gennaio. Uno spettacolo nato dall'esperienza di un laboratorio teatrale in un carcere femminile di alta sicurezza di Messina è quello di Tindaro Granata, dal titolo Vorrei una voce, in scena stasera al Teatro Verdi di Pordenone per la sezione Nuove Scritture. Con questo testo Granata dà voce a 5 donne, i loro silenzi e i sogni come gesti di resistenza. Inizio alle 20:30. E arriva nel circuito Erte Desplante, viaggio nel cuore più autentico del flamenco, il recital di danza, canto e musica del ballerino Edoardo Guerrero. Andrà in scena all'auditorium Biagio Marin di Grado alle 20:45, domani al Teatro Clavassi di Sedegliano e domenica all'auditorium di San Vito al Tagliamento. Ad accompagnare Guerrero sul palco ci saranno la voce di Alicia Morales Sanchez e la chitarra di Diego Antonio Fernandez Montoya. Prima assoluta di Diversi incarnati, poema breve di Rodolfo Bisatti, interpretato dalla voce di Sara Alzetta e con la regia dello stesso autore, a Trieste all'Hangar Teatri alle 20:30. Pi come Penelope, scritto e interpretato da Paola Fresa, l'icona della pazienza e della fedeltà spogliata dal velo del mito. Trieste, Teatro dei Fabbri alle 20:30, domani alle 18. E termina qui il nostro GR, che la prossima edizione alle 12:30 non andrà in onda, e neppure così i programmi regionali del mattino, per dare spazio alla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A redigere e a condurre questa edizione del GR Dario Ronzoni e Anna Vitaliani, in regia c'è Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Zeno Duban. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.